24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, fino alle 9 in diretta con 24 mattino e con il sondaggio di oggi che vi voglio subito lanciare. Poi sapete, ne parleremo alle 8:30, ma potete già votare su radio24.it o ilsole24ore.com. Beh, ieri il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, a un certo punto della giornata ha detto: vi sveliamo dove si costruiranno le nuove centrali nucleari in Italia. Ecco l'elenco dei comuni. E ha dato l'elenco dei comuni. C'è stata la smentita dell'Enel, ma Bonelli e i Verdi hanno detto: ora mobilitiamo tutte le popolazioni. Sembra tornato il clima pre-referendum 87 sul ritorno possibile al nucleare. Che ne pensate? Hanno ragione i Verdi a dire ora mobilitiamoci subito contro il nucleare oppure no? Questa è la domanda che vi facciamo oggi, che poi tradotta vuol dire nucleare sì o no. Votate, ne parleremo alle 8:30. Ora, come di consueto, andiamo a vedere cosa ci offrono i giornali. In primo piano. Le aperture sono diversificate, le scelte anche da parte dei quotidiani oggi. Il Sole 24 Ore sceglie di partire dall'America. Piano Obama per il lavoro. Barack Obama ha annunciato ieri un nuovo piano per creare lavoro negli Stati Uniti. E poi anche l'allarme di Draghi, molto forte. Draghi, il debito di stati e aziende salirà, le banche si rafforzino. Anche apertura economica per la stampa. Draghi lancia l'allarme sul debito, cresce troppo per stati e banche. Il Corriere della Sera invece sulla polemica Lega Tettamanzi, il cardinale di Milano, il vescovo di Milano. Napolitano difende Tettamanzi. Per la Repubblica battaglia sul TFR al tesoro, poi vedremo tra poco. Insomma, le scelte sono diverse. C'è anche chi sceglie l'apertura proprio sul nucleare. Regionali atomiche, è il Riformista, è proprio sulla vicenda dei Verdi che avrebbero rivelato una lista, peraltro smentita dall'Enel, sulle regioni e i comuni interessati alle nuove centrali nucleari. Vedremo altre aperture nel corso della rassegna stampa. Io voglio partire proprio dall'allarme di Mario Draghi dal Sole 24 Ore. Ieri Mario Draghi ha parlato non tanto come presidente della Banca d'Italia, ma come presidente del Financial Stability Board, ieri a Londra, nei pressi di Londra per la verità, al meeting inglese. Il rischio debito sui mercati. Draghi, grandi volumi scadenza nei prossimi anni per pubblico e privati. È Rossella Bocciarelli che spiega: la situazione è meno brutta di qualche mese fa, questa è la posizione di Draghi, però uno dei rischi che rendono urgenti le riforme in campo finanziario è che, anche se non a breve, i tassi di interesse nel mondo potrebbero risalire quando i bilanci delle banche non sono ancora risanati. Da banchiere centrale, insomma, Draghi ha lanciato questo allarme, non tacendo sul fatto, scrive Rossella Bocciarelli, che i tassi di interesse possono risalire per molte ragioni connesse a motivi di politica monetaria e connesse soprattutto al fatto che esiste un'enorme quantità di debito pubblico e privato destinato a venire a maturazione nei prossimi 4 anni. Ma intanto l'allarme è lanciato, anche se Draghi, non si sa se è un po' per patriottismo oppure perché guarda l'esperienza italiana in maniera più positiva, ha detto proprio: il sistema italiano potrebbe essere visto come un modello per evitare il fallimento di istituzioni finanziarie con rischio sistemico. Occorre infatti puntare, ha detto Draghi, a trovare un meccanismo e delle risorse che permettano alla banca di continuare le sue attività core. Questa è la cosa più importante e si può fare. Molti paesi hanno questo tipo di meccanismi, in Italia lo abbiamo e lo abbiamo usato diverse volte, non è mai fallito nessuno negli ultimi 25 anni. E ancora, concluso Draghi, non sto dicendo che il nostro meccanismo sia il migliore, ma può essere una soluzione. Però l'allarme certo è lanciato anche nel convegno di Londra. Draghi, il debito globale è allarmante, le banche risanino subito i bilanci. È una pagina del Messaggero con lo stesso allarme, insomma, lanciato appunto dal governatore di Banca Italia. Ora, c'è da dire che l'altro tema economico, come abbiamo sentito da GR24, è la finanziaria. La finanziaria che approda alla Camera a partire da oggi, dopo il via libera della Commissione Bilancio. Rimango dunque sul Sole 24 Ore. Oggi a pagina 9 Dino Pesole spiega quella che è la manovra tra l'altro con una mappa molto interessante degli interventi principali, quelli sulla Banca del Mezzogiorno, la copertura dello scudo fiscale, gli enti locali, sappiamo che c'è in ballo il taglio di molte poltrone. Tutto quello che riguarda l'occupazione, il pacchetto per la sanità, insomma un'infografica molto intelligente per cercare di capire che cosa bolle in pentola della finanziaria. Una finanziaria che hanno detto sia il sottosegretario all'economia Vegas sia il relatore al provvedimento Massimo Corsaro, nella quale si escludono modifiche e, scrive Dino Pesole, è prevista, prevedibile la fiducia nel caso, anche perché ci saranno da parte dell'opposizione annunciati centinaia di emendamenti. Secondo Dino Pesole il percorso alla Camera potrebbe portare al 18 dicembre, ma con ogni probabilità si chiuderà un paio di giorni prima, dunque entro il 16 dicembre l'esame della finanziaria. Voglio a questo proposito saltare su Repubblica, che in prima pagina, in apertura, mette questo titolo: battaglia sul TFR al Tesoro. È legato appunto alla vicenda della finanziaria che approda oggi in aula, come ricorda anche Repubblica. È battaglia però sull'utilizzo da parte del governo del TFR, così almeno ha lanciato l'allarme la CGIL. E si legge a pagina 2 in un articolo di Roberto Petrini: la finanziaria blindata corre verso la fiducia nell'aura di Montecitorio, mentre la CGIL insieme al PD e all'Italia dei Valori fa muro sull'utilizzo da parte dell'esecutivo del fondo TFR, che per 3,1 miliardi viene girato dall'INPS al Tesoro e posto a copertura di circa un terzo della manovra 2010. Il governo si fermi e tenga giù le mani dalle liquidazioni. Ha deciso di appropriarsi del TFR senza chiedere il permesso a nessuno, tantomeno ai lavoratori. E questo è l'allarme che è stato lanciato ieri dal segretario confederale della CGIL Agostino Megale, che forze politiche, l'Italia dei Valori, ha parlato di vero e proprio scippo ai danni dei lavoratori per questa decisione denunciata da Repubblica riguardante al TFR, tanto che c'è anche a pagina 3 un dossier dal titolo emblematico: quel tesoretto versato dai lavoratori che il governo usa per le sue spese, presi 3 miliardi dalle buone uscite di 3 milioni di dipendenti. Si ricorda che anche in passato anche Padoa-Schioppa aveva utilizzato questo fondo, ma solo per le infrastrutture. Repubblica mette anche i dubbi all'interno, ci sarebbero, del Popolo della Libertà, come Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, che dice: il ministro dell'Economia Tremonti ha deciso di finanziare, prelevando appunto 3,1 miliardi un pezzo della sua manovra economica, una mossa da dottor Stranamore, l'ha definita Giuliano Cazzola. Sapete che questo riferimento al dottor Stranamore è una polemica dei giorni scorsi, anche una polemica sull'economia, una battaglia tra economisti o non economisti all'interno del governo. L'altra vicenda della finanziaria che oggi trova ancora più risalto, ieri la citavamo sui giornali, su alcuni giornali, soprattutto sui giornali, diciamola tutta, quelli più interessati dai tagli, è la vicenda dei previsti tagli all'editoria, o meglio la perdita del cosiddetto diritto soggettivo da parte di giornali editi da partiti o editi da cooperative di poter accedere a fondi da parte dello Stato nella stessa misura degli altri anni. È stato un emendamento studiato, pare, dallo stesso ministro Tremonti, dal Ministero dell'Economia, messo all'ultimo momento in commissione bilancio nella finanziaria. E giornali come Liberazione, edito dalla Rifondazione Comunista, fiducia cieca oggi in apertura di prima pagina, una pessima finanziaria che arriva alla Camera, nelle pieghe c'è un dettaglio, un colpo di scure sulla libertà di stampa e su di noi. Il Manifesto insiste, i silenziati, che sarebbero poi i giornali come il Manifesto, il taglio ai fondi all'editoria ucciderebbero il Manifesto. Così anche il Secolo d'Italia, dunque di area PDL, il taglio ai giornali, un doppio errore, questo in prima pagina. C'è da dire che anche su Repubblica c'è questa posizione, vale a dire a pagina 2, i giornali contro Italia, l'editoria a rischio 4.500 posti di lavoro, e anche il Corriere della Sera fa un commento di Roberto Gressi nella pagina dei commenti: finanziamenti all'editoria, serviva una riforma, non la scure. Ecco perché non va bene il taglio con la legge finanziaria di cui si discute il Parlamento. Non va bene perché siamo davanti, scrive Gressi, non a una riforma ragionata di un sistema per tanti versi malato, ma solo di fronte all'uso indiscriminato della scure. Molti giornali sarebbero costretti a chiudere o perlomeno a ridursi drasticamente. È una battaglia dell'Unità, al Secolo d'Italia, al Manifesto, per esempio. Ieri Valentino Parlato, firma storica del Manifesto, l'ha definita una pugnalata. Lasciamo le questioni economiche, veniamo a quelle politiche, dove ferve ancora la situazione, insomma, delle polemiche tra la Lega e il vescovo di Milano, il cardinal Tettamanzi. Sapete che qualche giorno fa la Padania e Calderoli in primo piano come ministro ha detto più che un vescovo sembra un imam. Perché? Perché difende più i musulmani, così come spesso si dice è politicamente schierato, difende i rom invece che difendere i cristiani. Questa è la polemica della Lega. Ieri è intervenuto Napolitano, nell'apertura del Corriere, il presidente, il capo dello Stato, Napolitano difende Tettamanzi e ora dal Corriere della Sera si legge Bossi richiama i fedelissimi. Ora chiudiamo con questa storia. Si riepiloga un po' tutta la vicenda, un attacco della Padania che secondo il Corriere era deciso al vertice, cioè non era del direttore della Padania Leonardo Boriani, ma era proprio un attacco voluto a livello politico da parte dei vertici della Lega. Ora però la marcia indietro, il tentativo di minimizzare, tanto che La Stampa racconta un retroscena: Bossi vuole la pace, chiesto un incontro con l'arcivescovo di Milano. È volata qualche parola di troppo. Bossi che ha detto anche la Padania, francamente la leggo poco. Vabbè, forse anche qualche problema dunque interno. E Calderoli in realtà fa un'intervista, siccome molti dicono Calderoli si è scusato, ha fatto marcia indietro, Calderoli fa un'intervista a Libero, in realtà parla di tutt'altro, o meglio, parla soprattutto delle moschee, il no alle moschee, vogliamo il referendum sui luoghi di culto islamici. L'ultima domanda nell'intervista a Matteo Pandini è proprio secca sulla vicenda Tettamanzi Lega. La risposta di Calderoli: se fossi pentito avrei chiesto scusa. Io ho il massimo rispetto per il cardinal Tettamanzi, ma non condivido il suo pensiero politico. Punto. Dunque, insomma, non è che abbia fatto tanto marcia indietro, di certo scuse non ne sono arrivate. L'altra vicenda che trovate sui giornali è legata alle parole del Papa. Ieri il Papa ha fatto un intervento nel quale ha anche denunciato che cosa? I mezzi di informazione, o meglio il fatto che i mezzi di informazione, i mass media, i giornali si dedichino, si concentrino sempre di più al male, alle notizie negative, così condizionando un po' tutti noi, condizionando con questo modo di fare giornalismo, anche si può dire anche avvelenando le nostre anime, posso dire così, anche se sono parole mie, non quelle del Papa, certo. Allora, di questo trovate moltissimi commenti. Tra l'altro La Stampa intervista proprio il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, a pagina 3. Ci sono anche le autocritiche di alcuni direttori che dicono se sono osservazioni giuste. Zavoli, per esempio, insomma, firma storica della RAI, oggi presidente della Commissione Vigilanza RAI, dice: non mi meraviglio delle parole del pontefice. Vittorio Feltri dice: cose sagge, ma oggi i conflitti fanno più rumore. Marco Tarquinio, direttore d'Avvenire, dice: parole dure del Papa? Non dure, mi sembrano molto azzeccate, un promemoria davvero efficace per noi giornalisti. Servirebbe una stampa che racconta tutto, anche quello che c'è di positivo nella società. Soprattutto servirebbe più rispetto. Poi fa un esempio: Amanda Knox, se fosse stata brutta avrebbe ricevuto meno attenzione. Il problema è che abbiamo troppi schemi prefissati. Squaderniamo pagine e pagine con fotografie quando un lettore spende al massimo 20 minuti per leggere tutto. E poi siamo diventati pigri. Sì, pigri nell'approfondire le notizie e nel fare i riscontri. Ma trovate molto di questo, anche un commento in prima pagina del Sole 24 Ore dal titolo Il Papa e i media, sbattiamo il bene in prima pagina. E poi all'interno ci sono anche dei servizi, insomma, su queste parole di Benedetto XVI, che sicuramente hanno suscitato un dibattito molto interessante sul ruolo dei mezzi di informazione nella nostra società. In primo piano. Prima centrale nucleare al nord, il dossier porta alla regione Veneto. Questo è in prima pagina del Corriere della Sera di oggi, la firma di Sergio Rizzo. Il governo guarda al Veneto per la prima centrale nucleare. L'ipotesi di realizzare un sito nell'area del Polesine, vicino a Chioggia. Così scrive il Corriere, anche se ieri si è animato tutto appunto per questa dichiarazione del presidente dei Verdi, Angelo Bonelli. I Verdi fanno esplodere il nucleare sulle regionali. Questo è il titolo, davvero anche giocando un po' su quelle che sono le paure di chi è contro il nucleare. Sul Riformista, pagina 3, Angelo Bonelli ha detto: ecco, vi sveliamo i possibili siti che ospiteranno le nuove centrali. C'è da dire che sono siti che l'Enel dice, innanzitutto noi non abbiamo detto niente, secondo sono i siti soliti che da 30 anni sono considerati come i più plausibili. C'erano anche vecchie centrali come Montalto di Castro, ma anche Trino Vercellese, poi c'è Oristano, Palma in provincia d'Agrigento, Monfalcone, Gorizia, Garigliano, Caserta, Borgo Sabotino, Latina, questo Caorso, vabbè, Piacenza. Questi sono l'elenco che hanno svelato, avrebbero svelato i Verdi. Insomma, c'è polemica, i Verdi hanno detto mobilitiamo le popolazioni, che ne pensate? È il nostro sondaggio, non dovete scriverci messaggi, dovete votare su radio24.it, sulla home page, trovate un po' in basso a destra, bianco o nero, andate lì, votate lì, sì o no alla mobilitazione, come dicono i Verdi, sì o no al nucleare, ne parleremo poi alle 8.30. Trovate moltissimo ancora legato a criminalità e mafia. Allora, solo qualche citazione. Repubblica mette due pagine di verbali del pentito diventato più celebre d'Italia, Gaspare Spatuzza. Racconta il piano per uccidere l'ex procuratore di Palermo Caselli, oggi procuratore capo a Torino. Racconta come lui rapì il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, quello che finì sciolto nell'acido. Racconta come uccise Don Pino Puglisi, racconta il giallo della moglie di Bagarella. Insomma, per capire anche il profilo psicologico e gli atti compiuti da Spatuzza nel suo passato, Repubblica li mette in primo piano. Così come Libero invece titola in prima pagina così: nuovi veleni in arrivo. Cosa sono i nuovi veleni in arrivo? Sono legati a un libro di memorie e intercettazioni, scrive Libero, di chi? Di Gioacchino Genchi. Gioacchino Genchi è colui che è stato anche consulente di molte procure, anche dell'ex magistrato Luigi De Magistris, che ora ha scritto un libro, Il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato, e secondo Libero, tra l'altro, sarebbe tornato a lavorare per la procura di Crotone e starebbe già indagando su un'inchiesta nella quale, scrive Libero, ci sono nuovi nomi eccellenti in arrivo. C'era bisogno proprio di questo. Cito poi Il Fatto, in conclusione su questa vicenda, addirittura in prima pagina il titolo è questo, lo sentite, lo sto anche un po' sfogliando: altro che Spatuzza, Berlusconi incontrava i boss. Questo è il titolo molto tranquillizzante. Nella sentenza dell'Utri, che viene pubblicata in quattro pagine centrali, l'incontro, le riunioni con Bontate, uno dei boss della mafia. Se volete leggere tutta la sentenza di primo grado a Marcello Dell'Utri, la trovate su Il Fatto. Cito solo che il Corriere della Sera non è che sia entrato nella cella di Amanda Knox, condannata, ma Walter Verini, deputato del PD, sapete che i parlamentari possono fare le ispezioni nelle carceri, è andato a incontrare Amanda Knox. In cella da Amanda ho ancora fiducia nella vostra giustizia. Ci credo ancora, pensavo di tornare a casa per Natale, invece devo aspettare. Un'Amanda Knox che Ama scrivere, mi aiuta a sopravvivere ogni giorno. Ho vinto anche un concorso letterario qui qualche tempo fa con un ricordo di pura immaginazione. Ho sentito che parlano tutti di me negli Stati Uniti, ma dice io... è un errore giudiziario, sì, ma io non critico il sistema italiano. Mettendo così un po' una pietra tombale sulla non notizia che da giorni vedrebbe Hillary Clinton in prima fila contro la giustizia italiana. Appunto, una non notizia, perché Hillary Clinton non ha mai detto niente di tutto ciò. Trovate tantissimo, devo fare solo una segnalazione, ma 20 secondi li ruberò per la vicenda che vede travolto Tiger Woods, il campionissimo di golf. Maledizione Woods, suocera in barella, la moglie se ne va, e te credo, cioè hanno trovato per ora 10 amanti, per ora 10, pare che ce ne siano di più, con i tabloid scatenati a offrire denaro a chiunque, a qualunque donna, e per ora ne sono uscite 10, dica ho fatto sesso con Tiger Woods. Lo trovate ovunque, il tramonto di Tiger Woods sulla stampa, è un tracollo del campione di golf, con la moglie che se n'è andata, la suocera che ha avuto un malore, lui che ha avuto un incidente misterioso in macchina, e qualcuno dice non tornerà mai più a giocare a golf, chissà. Eccoci alle 8:17 minuti, ben ritrovati con 24 Mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Sì, per modo di dire qua. Stamattina. Sì, vabbè. Scusami, io devo fare un appendice di rassegna stampa. Se mi... non avevo no, letto guarda, anche no, magari. Non se avevo non la letto fai, la Gazzetta dello Sport. Ecco, non leggiamola, guarda. Milan è fatta, Juve disfatta. Bene, mi posso anche alzare, lo fai tu soldi e dintorni ieri stamattina? Deborah Rosciani era sì, Torino. Ci sono andata persino là, ci sono andata pure là, capito? Era e ho persino Torino. Comprato la sciarpa. Scusa se rido, ma insomma... io piango. No, ti vediamo un po' infreddolita, insonnolita esatto. E anche un no, po'... No, ma poi ti racconto la scena finale. 81esimo, ce ne andiamo, ho preso il terzo perché dico, vabbè, non è possibile vedere peggio di quello che abbiamo visto, neanche il tempo di raggiungere la macchina. Ma non ha cambiato la situazione. No, no, sì, però già col terzo, non ridiamo delle disgrazie sportive altrui. Sono cose brutte. Parliamo di altro. Parliamo di auto? Sì. Parliamo di auto. Perché? Perché arriva a gennaio, probabilmente, il decreto legge con la proroga degli incentivi destinati a sostenere i consumi e a favorire i prodotti con una più alta efficienza energetica e minori emissioni di anidride carbonica. Questa è l'indicazione che ha dato in un paio di occasioni il ministro dello sviluppo economico Scajola, e questo intervento non verrà fatto appunto in finanziaria, come vi dicevo, ma probabilmente con un intervento ad hoc in gennaio. Perché? Perché il pacchetto di incentivi già esistenti ha ottenuto un discreto successo, il governo si è ritenuto soddisfatto dei buoni risultati per il 2009, soprattutto per le auto ecologiche, per cui si sta pensando ad una proroga di questi incentivi. Allora noi facciamo un po' il punto della situazione, anche perché i vecchi incentivi sono ancora in corso, c'è tempo fino al 31 dicembre per acquistare un'auto nuova e quindi beneficiare sia degli sconti del governo che di quelli eventualmente delle case automobilistiche, e ovviamente sono sconti che valgono per le vetture che possono essere immatricolate fino a marzo 2010. Con chi facciamo il punto? Naturalmente con il massimo esperto del settore del nostro paese, un collega, Mauro Tereschini, direttore di Quattro Ruote. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, con te Mauro vorremmo fare anche qualche ipotesi su quelli che potrebbero essere i parametri dei nuovi incentivi, e però direi anche di guardare un po' i risultati che sono stati ottenuti, perché tra chi polemizza sugli aiuti dati all'industria automobilistica, che poi nel nostro paese, che si voglia o meno, anche un indotto non trascurabile, gli effetti degli incentivi sono sotto gli occhi di tutti, anche alla luce dei dati sulle immatricolazioni auto che sono stati ottenuti a novembre. Direttore. Sì, in effetti il mercato dell'auto sta andando molto bene, forse uno dei pochi settori industriali che sta tirando, perché novembre ha fatto più 30%, che è un dato abbastanza clamoroso, e questo sta consentendo anche di chiudere l'anno, cioè il 2009, con un dato positivo, perché dato che anche dicembre sarà con il segno più, si prevede che il mercato dell'auto ci chiuda con un più 1%, visto che si era cominciato a gennaio, febbraio, marzo con un grande freddo di meno 20, meno 30, devo dire che c'è stato un grande recupero e probabilmente probabilmente c'è l'impressione da parte degli italiani che questi incentivi verranno rinnovati, ma forse con un po' meno soldi rispetto a quelli che sono stati messi nel 2009. E quindi Scajola finora ha dato delle indicazioni un pochettino generiche, perché parla di macchine ecologiche senza dire bene che cosa intenda per macchine ecologiche, e su questo c'è una bagarre sotterranea di cui i giornali non parlano, fra il costruttore nazionale e soprattutto i costruttori tedeschi, perché ovviamente la Fiat spinge per avere contributi ancora più forti sul metano, che quest'anno ha vissuto un vero e proprio boom, mentre invece gli stranieri, dicevo soprattutto le case tedesche che in questo mercato sono praticamente assenti, spingono per far sì che tutte le motorizzazioni siano trattate allo stesso modo e che il parametro per dare i contributi sia nelle emissioni e non nel tipo di alimentazione. C'è una bella battaglia che si sta giocando, Scajola appunto fa un pochettino finora il pesce in barile e solo a gennaio sapremo che cosa è successo esattamente. E chi però avrà, secondo chi me un vinto? Po' meno incentivi forse ci saranno. Beh, un po' anche come è successo per le due ruote. In ogni caso, insomma, questo pacchetto ci sarebbe, vedremo quanto sarà in grado il governo di offrire a chi è in procinto di acquistare un'auto nuova. Allora, ci facevi appunto qualche riferimento, Mauro, alla questione del metano che ha avuto un vero e proprio boom, ma complessivamente quali marche hanno trovato il consenso degli automobilisti italiani grazie agli incentivi in corso? In quale direzione hanno approfittato degli sconti? Quali sono state le tendenze d'acquisto su quali modelli, tenendo conto anche del fatto, adesso magari rifacciamo anche il punto sugli incentivi, che ovviamente accanto agli aiuti del governo ci sono poi anche le politiche di incentivo che le singole case automobilistiche possono offrire? Beh, diciamo che le tendenze sono due sostanzialmente. La prima è che gli italiani comprano macchine sempre più piccole, in questo spinti anche dagli incentivi, però di fatto di anno in anno si abbassa di 1000 euro il prezzo medio che gli italiani spendono per comprare l'automobile. Quindi adesso siamo sui 15.000 euro e c'è una discesa abbastanza rapida. L'altra tendenza è quella di andare appunto sempre di più verso motorizzazioni cosiddette alternative, quindi metano, ma anche e soprattutto GPL, che ormai rappresentano un terzo del mercato. Appunto, una macchina su tre comprate in Italia oggi è o a metano o a GPL, e queste due alimentazioni hanno superato anche la benzina e presto potrebbero raggiungere il diesel. Tenete conto che è un boom che potrebbe essere stato ancora più consistente se ci fosse stata più disponibilità di prodotto, perché i costruttori si sono accorti tardi di questa tendenza, che oltretutto è soltanto italiana, perché in realtà il metano e il GPL vengono venduti anche all'estero, ma in percentuale assolutamente risibile, e quindi c'è stata, diciamo, una tendenza molto forte verso carburanti ecologici e anche verso appunto l'acquisto di macchine più piccole, che secondo me è un bene non soltanto per l'ambiente ma anche per le nostre grandi città, dove c'è un terribile problema di spazio, non soltanto di appunto di inquinamento. Quindi noi la consideriamo una tendenza estremamente positiva, che speriamo che si consolidi anche nei prossimi anni, perché i costruttori stanno appunto cercando di dare grande spazio e grandi prestazioni all'interno di macchine piccole, e questo è sicuramente un grande progresso anche dal punto di vista tecnico. Allora, c'è ancora tempo, visto che ci hai già detto che presumibilmente a spanne gli incentivi di gennaio saranno inferiori a quelli che sono già in corso, per chi volesse approfittarne fino alla fine del mese di quelli appunto che sono disponibili fino a questo momento, vogliamo rifare un po' il punto della situazione, Mauro? Allora, bonus metano, bonus GPL, poi la rottamazione, si possono mettere insieme? Come funziona il sistema, il pacchetto degli incentivi attuale? Sostanzialmente in due modi: o si rottama un'auto vecchia che abbia più di 10 anni, e in quel caso si deve comprare una macchina che abbia emissioni contenute, quindi si misurano queste in grammi di CO2, ma su quello credo che un buon concessionario possa aiutare, e in quel caso si ha diritto a 1.500 euro di incentivo, oltre ovviamente agli sconti delle case, che sono molto consistenti in questo momento. E poi invece, se si compra un'auto nuova, indipendentemente dal fatto di rottamarne una vecchia, che sia a metano, a GPL o ibrida, si hanno anche lì dei contributi molto importanti, che possono arrivare addirittura fino a 3.500 euro, e anche questi sono misurati a seconda delle emissioni. Tenete conto che grazie a questi meccanismi, e sommandoli anche a dei contributi regionali, sentiamo anche su Radio 24 spot commerciali di piccoli veicoli commerciali che vengono venduti a 3.900 euro, quindi effettivamente c'è tutto un accumularsi di incentivi e di sconti che fanno sì che adesso in molti casi un'automobile nuova costi meno di uno scooter, e questo spiega anche il più 30% di novembre, perché probabilmente appunto gli italiani pensano che sarà difficile ripetere una situazione di questo genere. Ci saranno forse incentivi, io penso, un pochettino più contenuti. No, tra l'altro poi una cosa anche molto curiosa, ma magari questo, Mauro, non è un tema che affrontiamo con te questa mattina, anche tutto il sistema dei prestiti legato al settore auto ha vissuto una stagione abbastanza particolare, perché i prestiti finalizzati, che mediamente sono proprio rivolti all'acquisto dell'arredamento nuovo della casa, proprio dell'automobile, sono diminuiti clamorosamente, per cui anche verificare insomma come è avvenuto tutto questo, cioè che comunque l'auto è stata acquistata, le immatricolazioni sono cresciute molte, ma non utilizzando il canale del prestito, è molto interessante. Comunque, a parte questo, la caccia allo sconto tra le case automobilistiche, perché dicevamo i bonus sono cumulabili con la rottamazione, ma anche con gli incentivi e le promozioni in corso presso le concessionarie auto. Quali sono le case che si sono spese di più individualmente? Ma sicuramente una casa molto aggressiva è sempre stata Citroen, però tieni conto che le case si tengono d'occhio in una maniera assolutamente spasmodica, veramente ora per ora, e quindi sullo stesso tipo di prodotti, facciamo un esempio, Fiesta, Punto e C3, che sono tre macchine estremamente importanti nel cosiddetto segmento B, cioè quelle delle macchine più vendute in Italia, beh, lì devo dire gli uffici marketing veramente si sorvegliano minuto per minuto sulle promozioni che fanno, perché ormai è un mercato molto tattico e molto legato alle offerte e il consumatore è molto attento a questo tipo di situazioni, e quindi sostanzialmente si pareggiano nel giro di poche ore. C'è veramente una gara ad essere il più aggressivi e anche il più sorprendenti possibili, però ripeto, c'è subito da parte del concorrente lo sforzo per pareggiare l'offerta, perché altrimenti sa che può perdere quote di mercato nel giro di pochi giorni, e quindi c'è un lavoro di controspionaggio molto bello e molto divertente, di cui però alla fine questo credo che sia quello che conta, fruisce perché il la concorrenza perché funziona, paga certo. Le macchine di meno, quindi questo va benissimo. Mauro, noi dobbiamo salutarci, 10 secondi di tempo, so che probabilmente te ne occuperai moltissimo per il tuo giornale, soprattutto quando il pacchetto sarà pronto a partire dal prossimo mese, ma dacci un suggerimento buono per approfittare nel miglior modo dell'incentivo auto. Beh, bisogna fare un giro magari anche su internet e guardare un pochettino quali sono le offerte, perché soprattutto verso fine mese i concessionari hanno assolutamente bisogno di fare certi obiettivi e quindi possono arrivare delle offerte clamorose, quindi girare un pochettino su internet o anche nei concessionari, a fine dicembre possono esserci dei prezzi incredibili. Saldi di fine anno. Mauro Tedeschini, esatto. Direttore di Quattro Ruote, buona giornata Mauro, a presto a direttore. A voi, buona giornata. Alessandro. Eccoci. Dall'incentivo auto, oggi a Salvadanaio parliamo dei conti correnti, perché invece stanno proprio scarseggiando le promozioni da parte delle banche. Cosa sta succedendo? Insomma, erano tanto generose fino ad un anno fa e adesso invece sono diventate un po' più scarsine di offerte, di promozioni. Sì, sai com'è, c'ho il cuore bianco-nero stamattina a pezzi, ecco. Non riesco neanche a parlare. Allora, noi ripartiamo dal sondaggio sul nucleare. I Verdi ieri hanno detto: vi sveliamo dove verranno costruite le centrali nucleari in Italia. L'Enel ha smentito questa lista, ma i Verdi dicono: mobilitiamoci. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: la finanziaria approda oggi alla Camera per il voto finale previsto la prossima settimana. Manovra blindata, il viceministro Vegas non esclude il ricorso alla fiducia. E intanto sul fronte finanziario il governatore di Banca Italia Draghi avverte: uno dei principali rischi per il futuro è l'impressionante massa di debito pubblico e privato in scadenza nel mondo e che potrebbe fare i conti con un aumento dei tassi di interesse. Giorgio Napolitano e il segretario di Stato Vaticano Bertone difendono il vescovo di Milano e il cardinale Tettamanzi dagli attacchi della Lega. Il giornale del partito, La Padania, aveva definito Tettamanzi un imam. Infine, per il calcio, la Champions League, il Milan pareggia a Zurigo 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale grazie alla vittoria del Real Madrid a Marsiglia, mentre è eliminata la Juventus, bianconeri sconfitti in casa 4-1 dal Bayern e a passare sono i tedeschi. Stasera tocca all'Inter, a San Siro con i russi del Kazan, basta un pareggio per qualificarsi, mentre la Fiorentina, già qualificata, va a Liverpool. E allora 8:35 minuti, il sondaggio di oggi è sul nucleare. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Ieri sembrava una giornata tranquilla, io ero qui al lavoro, ma insomma giornata di festa, quando le agenzie hanno battuto questa notizia, i Verdi dicono: attenzione, vi sveliamo i siti dove ci saranno le centrali nucleari italiane. 8 comuni, non tutti ovviamente, le centrali dovrebbero essere 4, ma la scelta sarà tra 8 comuni che sono stati elencati appunto dai Verdi, vale a dire Montalto di Castro, Borgo Sabotino, Garigliano in provincia di Caserta, Trino Vercellese, Caorso, Oristano, Palma in provincia di Agrigento, Monfalcone, Gorizia. L'Enel ha smentito, ma insomma, Angelo Bonelli, buongiorno, presidente dei Verdi. Buongiorno. Eccoci qua. Che avete combinato? A parte che qualcuno ha detto, ma è una lista vecchia di 30 anni, qualcun altro ha detto, beh, ma ieri Milano Finanza l'aveva pubblicata in prima pagina, insomma, avete letto i giornali, no? Che ci sveli questa cosa? Ma noi i giornali li leggiamo come vabbè, italiani, come, come penso tutti. Che sia questo il problema. Il problema è che in questo momento c'è un problema di democrazia, l'Enel e il governo non informano i cittadini rispetto al dove ci sono le collocazioni dei siti. Guardi, le do un'informazione, così chiunque ci sta ascoltando, visto che tutti più o meno navighiamo in internet, potranno vedere. Alcuni giorni fa l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, in una trasmissione Effetto Domino. Perché io c'ho l'audio e lo faccio sentire. Siamo una redazione efficiente, allora, però se lei me la brucia così. Allora partiamo da qui. L'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, è andato alla 7 da Mirta Merlino, Effetto Domino, la trasmissione. Alla domanda sui siti ha risposto così. Ce li ha già in testa lei i siti? Io personalmente sì, ma anche se non mi tortura dice. Non gliele dico. Anche se la tortura, anche peccato. Se mi fa mangiare tante mele non gliele esatto. dico. Esatto, perché non me li può dire, perché poi fa andare incontro. Non glielo dico perché fuori gioco il governo. Probabilmente devono essere ancora evidentemente vagliati tutti gli altri elementi di tecnici. Allora, io personalmente i siti li ho in testa, ma non li dico neanche sotto tortura, insomma anche una fase un po' scherzosa, insomma non li dico certo qui. Ecco Bonelli, questo è l'incipit, diciamo. Guardi, noi ci siamo attivati proprio da questa affermazione, del resto sapevamo, in questi ultimi mesi vi sono stati sopralluoghi ripetuti, possiamo indicare anche date da parte dei tecnici dell'EDF, la società di produzione di energia elettrica francese, e dell'Enel, tra l'altro come tutti sapranno è l'accordo che vede poi importare la tecnologia di terza generazione qui in Italia. Ma del resto io penso che dovrebbe esserci un atto di rispetto nei confronti degli italiani e cominciare a dire quello che si sta facendo. Del resto il governo italiano, cosa che noi non condividiamo, ha deciso di riportare in Italia il nucleare, non penso che lo riportino senza costruire centrali. Quindi questa smentita dell'Enel mi sembra veramente un boomerang, è anche una cosa abbastanza dice, vabbè, comunque il nostro sondaggio è questo: voi avete invitato alla mobilitazione democratica delle popolazioni contro il ritorno del nucleare, ma ci dica lei, questa lista ce l'avete, cioè cosa avete scoperto in più? Perché Conti ha detto, io personalmente li ho in testa ma non li dico, voi perché ieri avete detto vi svegliamo, lo sappiamo noi? Perché ovviamente abbiamo saputo attraverso persone che ancora hanno una coscienza civica, che lavorano in alcuni settori importanti, che ci hanno informato in questa direzione. Del resto non penso che lei mi solleciti di dire chi è il nome e cognome delle persone. No, vabbè, la fonte, in questa direzione. Del resto però stiamo parlando di una cosa che francamente dire chi ve l'ha dato o non ve l'ha dato. Il punto è che i siti ci sono, l'Enel non solo ce li ha in testa, ha fatto sopralluoghi, ha fatto le relazioni, il governo ne è anche stato informato. Si vuole tenere all'oscuro i cittadini di questa cosa. Aggiungo un'ultima cosa e mi fermo. Del resto tutti devono sapere che nella legge che è stata da poco approvata, che reintroduce il nucleare, è previsto l'utilizzo dell'esercito per il controllo, la sicurezza e la realizzazione dei siti stessi, perché sono considerati siti strategici. Allora io voglio salutare, la sta ascoltando Chicco Testa, buongiorno Chicco Testa. Buongiorno. Imprenditore, è stato anche presidente dell'Enel, ma qui non parla ovviamente in veste in difesa dell'Enel. Che ne pensa Testa di questa uscita, insomma, dei Verdi? Effettivamente le parole di Conti sono chiare, i siti li abbiamo in testa, però lei che dice? Ma dunque, intanto effettivamente le centrali previste dal governo sono 8 e non 4. 8, sono, ecco, quelle perfetto. Che riguardano l'accordo tra Enel e EDF, ma se l'obiettivo indicato a Scajola, 25% di energia elettrica prodotto col nucleare, 4 centrali non bastano. Per il resto, onestamente, non capisco dove sia la notizia, nel senso che prima di tutto quegli 8 siti che sono stati indicati sono siti che già fanno parte, in parte sono siti dove già c'erano centrali nucleari, nel passato in parte fanno parte, mi scusi il bisticcio, di criteri di localizzazione che sono stati ampiamente indagati nel passato, ma non è questo il punto. Credo che sia difficile costruire delle centrali nucleari tenendo segreto dove si fanno le centrali nucleari. È chiaro che ad un certo punto, se il governo intende continuare su questa strada, dovranno essere indicati i siti, le localizzazioni di queste centrali. Costruire una centrale nucleare senza far sapere dove la si costruisce è un'operazione, le assicuro, sì, un po' complicata. Assolutamente impossibile. Quindi lei dice solo una questione di tempi. Che ne pensa dell'appello dei Verdi? Mobilitiamoci democraticamente. I Verdi fanno il loro mestiere. Temo che nell'opposizione, che sicuramente ci sarà alle centrali nucleari, più che diciamo una coscienza ambientalista, personalmente io ritengo che il nucleare possa e debba essere amico dell'ambiente, varrà quella vecchia sindrome che nel nostro paese conosciamo molto bene, che è nota come sindrome NIMBY, not in my backyard. Sì, va bene il nucleare, va bene, però non fatelo a casa mia, per favore. E quindi scatteranno tutte quelle forme di egoismo locale che non è che si rivolgono solo contro il nucleare, si rivolgono contro una molteplicità di impianti utili al nostro paese e però osteggiati dalle popolazioni locali. Il caso più famoso, se vogliamo, di questa storia, che poi si è tradotto, lo dico diciamo a prescindere dalle mie idee politiche, si è tradotto in un assist formidabile per il premier Berlusconi, è stato quello di Napoli, dove una teoria folle secondo la quale a Napoli i rifiuti potevano scomparire nel nulla, si è arrivati alla situazione che conosciamo, con i rifiuti smaltiti illegalmente, bruciati per strada, sì, produzioni di inquinanti, di diossine, eccetera, eccetera, ma opposizione frontale e termovalorizzatore, impianto per smaltire i rifiuti in maniera, diciamo, industrialmente moderna, come si fa in tutti i paesi. Infatti in Campania non c'erano termovalorizzatori. In tutti i paesi del mondo, mi consenta, in tutti, sì, i paesi del mondo, compresa l'Europa, esistono impianti nucleari o esistenti o addirittura in costruzione. Le segnalo che in Europa, dopo la decisione della Svezia, che era stata la prima a introdurre la moratoria per gli impianti nucleari, ma che è tornata sui suoi passi, l'unico paese, diciamo, che mantiene il bando dell'energia nucleare è l'Austria. Allora, tra l'altro, c'è da dire che oggi il Corriere della Sera esce in prima pagina, l'ho letto prima nella segna stampa, la prima centrale nucleare al nord, il dossier porta alla regione Veneto, è Sergio Rizzo che ne parla, ma tra poco credo che riusciremo, l'abbiamo chiamato, ci sarà anche l'assessore all'ambiente della regione Veneto. Io prima voglio salutare il sindaco di Palma di Montechiaro, Agrigento, Rosario Gallo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Lei è uno degli 8 indicati dai Verdi, nel senso buono o nel senso non buono, lei che ne pensa? Insomma, uno degli 8 comuni dove i Verdi hanno detto eccoci qua, qui una centrale. Per la verità i Verdi hanno raccontato una cosa che ha detto l'Enel, perché noi... L'Enel non è che ha detto, l'Enel non, sì, ha fatto nome. Ufficialmente l'Enel non l'ha detto, ma l'ha detto stampa dell'Enel, ha rilasciato un'intervista due settimane fa al giornale La Sicilia, qua in Sicilia, sì, nella quale ha parlato dei progetti industriali dell'Enel in Sicilia, ha parlato e ha mostrato come l'energia, la produzione dell'energia sia il business in questo momento in Italia. Sì. Infatti io sono il sindaco di una delle città che può essere presa a simbolo delle contraddizioni del sottosviluppo del Mezzogiorno. Però mi scusi sindaco, dai, che io questa intervista non l'ho letta, mia colpa, ma non leggo La Sicilia. Non credo che l'ha detto stampa dell'Enel abbia detto faremo una centrale nucleare a Palma di Montechiaro, sarebbe stata la notizia del giorno. L'ha detto stampa, ha detto che c'è questo piano dell'Enel. Ha parlato di tutto, ha parlato dell'energia alternativa, ha parlato del rigassificatore che l'Enel ha in progetto di realizzare vicino a Palma, sì, di Montechiaro, in provincia di Agrigento, a Porto Empedocle. Ha parlato di un elettrodotto che dovrebbe collegare la Sicilia con la Tunisia e poi ha parlato anche del nucleare, dicendo che la Sicilia è una regione che potrebbe ospitare una centrale nucleare. A un certo punto ha fatto anche la battuta che la Sicilia potrebbe andare dal Gattopardo all'atomo, perché siccome appunto Palma di Montechiaro è la donna fugata del Gattopardo. Sì, sì. E allora ha fatto questa battuta che era un'allusione che è stata interpretata come un'allusione proprio esplicita a Palma di Montechiaro. Vabbè, io questa intervista me la sono persa, ma insomma, messa così, insomma, che la Sicilia possa essere una delle regioni, vabbè, ma come diciamo, morfologicamente si studiano le possibilità, insomma, delle varie regioni. Devo andare al traffico, rimanete con noi, votate, però c'è da dire che il 53% dice sì, fanno bene i Verdi a dire mobilitiamo democraticamente le popolazioni interessate. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, cosa ne pensate della decisione dei Verdi di dire ecco i siti delle centrali nucleari, i cittadini si mobilitino? Questa è la nostra domanda. Il 55%, devo correggermi, dice per ora fanno bene. Allora, rispondo solo a un messaggio di chi ci scrive. È una Anna, Lega Ambiente, Rivoli. E le scorie nucleari dove le mettiamo? Leggo sempre da Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera. Sembra garantito che il deposito delle scorie sarà al sud, a quanto pare tra l'altro non nel sottosuolo ma in superficie, al sud, poi vedremo. La data indicata da Sergio Rizzo è il 15 febbraio come data entro cui dovranno essere pronti i 4 provvedimenti del governo necessari per costruire le nuove centrali. Ne sapremo di più a febbraio, chi lo sa. La mia previsione, ma io non conto nulla, è che prima delle regionali non verranno fatti i nomi di siti ufficialmente. Sindaco Gallo, volevo chiedere, sindaco di Palma di Montechiaro Agrigento, le chiedo, lei è pro o contro il nucleare? Cioè, lei si mobiliterebbe nel momento in cui ci fosse l'ufficialità o no? Beh, io mi mobiliterò anche se la centrale dovesse essere fatta a Caorso, a Trino Vercellese. Ah. Le ho detto chiaramente cosa penso. Cioè, lei è contro il nucleare. E insomma, non è una posizione ideologica la mia, ma è una posizione che si riferisce a scelte di politica economica e anche di politica industriale. Io credo che sia questa una posizione arretrata del governo italiano. Non è vero che il nucleare sia la prospettiva per la produzione di energia nel mondo. Forse 30 anni fa era un discorso possibile sul piano economico. Adesso lei dice no. Vabbè, Ma cosa farei in Sicilia? Sì. Io farei un programma energetico con questo slogan: un tetto, un pannello solare. Lei di che partito è? Posso saperlo? Non gliel'ho chiesto. Io ero DS, sono Sinistra e Libertà. Sinistra e Libertà. Beh, non vorrei stare in una forza di sinistra che non c'è più in Italia. Va bene. Voglio tra l'altro salutare anche, ci ha raggiunto l'assessore alle politiche ambientali della Regione Veneto, Giancarlo Conte. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie, l'abbiamo chiamata questa mattina. Ma sa, il Corriere della Sera mette questa notizia: la prima centrale nucleare sarà al nord e il dossier porta alla Regione Veneto. C'è anche il presidente dei Verdi Bonelli che l'ascolta insieme a Chicco Testa e al sindaco di Palma di Montechiaro Agrigento. Il Veneto, Galan ha sempre detto ben venga la centrale, cioè non c'è un no pregiudiziale. Ora lei, l'assessore all'ambiente, già ci ha confermato anche in passato questa posizione. Immagino la conferma, che effetto le fa leggere, se l'ha già letto, che il Veneto è indicato come possibile luogo della prima centrale? Non ho ancora letto il Corriere, però le posizioni nostre, il Presidente le ha già espresse, ma anche le mie personali, relativamente a un'apertura, disponibilità a una centrale nucleare, le abbiamo sempre dette. Del resto, ricordo 10 anni fa ormai, quando siamo stati l'unica regione a dire di sì al rigasificatore, che abbiamo fatto, ci abbiamo messo 10 anni, però adesso c'è, funziona, porta dei vantaggi, 10% del gas, insomma. Si parla dell'area del Polesine in questo articolo, visto che non l'ha letto, sì. Insomma, l'anticipo, vicino a Chioggia. Sì, giravano già queste voci di 2 siti nel Veneto, ma ripeto, io confermo, noi siamo disponibili, ovviamente aperti come lo siamo sempre stati, cioè siamo sempre in questo settore delicato e importante come quello ambientale, come quello dei rifiuti o delle centrali, soprattutto parlando di centrali di quarta generazione, dove ormai la tecnologia ha fatto dei passi avanti per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini e la sicurezza ambientale, consapevoli che noi non abbiamo petrolio, non abbiamo elettricità, non abbiamo gas, non abbiamo quindi tutte le fonti naturali, siamo sempre stati aperti a qualsiasi tipo di intervento. Del resto sono anni che noi nel Veneto utilizziamo ormai il rifiuto come risorsa per ricavare energia e calore, quindi abbiamo i nostri termovalorizzatori, tutto quanto, e quindi siamo autonomi e autosufficienti per quanto riguarda questi settori. Allora io vorrei tornare per un attimo da Angelo Bonelli. Ha sentito, insomma, il Veneto dice sì e oggi lega anche il Corriere. Il sindaco di Palma dice io mi mobiliterei e mi immobiliterò anche per Caorso o per Trino o per il nucleare, insomma, contro il nucleare. Come finirà questa storia, Bonelli? Ma io posso dire quello che... Cioè che fate voi di concreto? Mobilità vuol dire da domani sarete attivi a fare che? Noi siamo già dalla manifestazione di sabato scorso, abbiamo raccolto 13.000 firme, stiamo raccogliendo le firme in preadesione al referendum, al quesito referendario che nelle prossime settimane depositeremo insieme a una realtà, a varie realtà associative e... C'è un nuovo referendum sul nucleare. Insieme all'altro quesito che sarà quello della privatizzazione dell'acqua. Come finirà è quello che posso augurarmi io. Io penso che bisogna avere un approccio scientifico sulla vicenda del nucleare. I temi che intendo introdurre sono innanzitutto che va finanziata la ricerca, in particolar modo su un nucleare, quel nucleare che non produce scorie radioattive, ad esempio come quello della fusione fredda. In secondo luogo, la questione del nostro no al nucleare è una questione essenzialmente economica e, diciamo, di sicurezza. Ad oggi non esiste nessuna tecnologia che garantisca una sicurezza. Se ne è parlato poco in Italia, ma forse i cittadini italiani devono sapere che in questo momento vi sono 18 reattori nucleari in Francia che sono fermi, che è la stessa tecnologia che dovrebbe essere esportata in Italia, a tal punto che questi fermi hanno portato a una diminuzione della produzione di energia in Francia e da pochi giorni, poche settimane, la Francia è diventata importatrice di energia, perché c'è un problema di questo genere. Non sto dicendo cose, sono cose che qualunque persona può andare a vedere. Sulla questione sulla quale io poi mi devo fermare è molto dibattuta, perché lei sulla questione di sicurezza che mette come no, ci sono altrettanti scienziati, che non che lei sia uno scienziato, ma che dicono che invece che è estremamente sicuro. Sarà un confronto su punti di vista. Voglio introdurre che non bisogna avere un atteggiamento ideologico su questo. E un altro tema è la questione del... Oggi noi parliamo noi Verdi, ma insieme ad altri diciamo che bisogna uscire fuori dalla dipendenza del petrolio, sì, perché il costo, vediamo quanto il barile oggi costa. Ma domani, già da oggi, il costo dell'uranio arriverà... Questo è l'altro tema, l'uranio, il costo e poi le scorte finiranno. Ma insomma adesso non c'è tempo per aprire questa voragine di dibattito scientifico qui, perché io mi devo fermare. Ringrazio davvero tutti. Oggi abbiamo parlato poco, ma eravate in tanti. Vi ringrazio da Chicco Testa, Angelo Bonelli, Rosario Gallo e l'assessore Giancarlo Conta. Ci fermiamo, votate sul sito. Che ne pensate della mobilitazione chiamata dai Verdi, democratica contro il nucleare? 54% sì. Per ora, Laura Marchesi in redazione con Peter Bescapè in regia. A domani.